Questo è un comunicato delle Brigate Rosse. Abbiamo Aldo Moro. Di nuovo? Lo trovate? Dimmi, Amdi. No, volevo dirti altro. Va bene, dimmi, Amdi. Mi sa che sarà al cesso. Norberto Cirillo, bambino Norberto Cirillo è pregato all'angolo di presentarsi all'angolo famiglia. Vabbè, allora, se a qualcuno interessa, facciamo delle domande a Francesco, se no continuiamo a bere Campari con il bianco col Campari, come cazzo si chiama, e basta. Quello non lo so, quella strana versione non lo so. Allora, in realtà dobbiamo portare rispetto alle uniche tre persone, quattro persone in sala, che sono così gentili da stare qui con noi. Scusami, io rispondo un attimo al telefono e poi iniziamo. Professionismo, Lo sai che qui non ce n'è mai. Bianco Campari, figa, l'abbiamo fatto davanti a te. Ma credevo questo qua è bianco, no. Sì. Va bene, Va bene, buonasera a tutti e tutte le persone che sono qui con noi adesso, in questo momento, in questa sala, in questo centro sociale, in questa via, in questa città, in questo paese, in questo mondo. Ma soprattutto buongiorno e buonasera. Hai preso un po' la larga. Esatto. A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cina 1, sono 1,5 miliardi di persone che ci seguono, tradotti in diretta da Elena, che anche se non si vede sta traducendo. Ciao Elena, salve. Salutiamo Eugenio, salutiamo... Ciao Laura, grazie, ci vediamo domani, ciao. E allora, siamo qui con Francesco, prode, autore di un sacco di belle cose, che adesso magari ci presenterà. Il motivo per cui siamo qui è la sua fantastica mostra per le strade con l'Armata Nera, l'ultima fatica artistica di quest'uomo meraviglioso, posso dirlo? Posso dirlo, ma soltanto perché dormiamo insieme stasera. E continuo a ripeterlo, così poi alla fine succede. E basta, io volevo farti una domanda, ma te la faccio dopo. Vai subito con le domande. Vado subito con le domande. Subito. No, la domanda dai, che ho in mente. Dai. No, ha bisogno di tempo. Stress, ha bisogno di tempo. Vuoi? Ok, allora faccio la domanda. Vabbè. Sì, come film al contrario, no? Che iniziano mi hai convinto. Fine, hai visto Tenet? Sì. Ah, c'è un programma della Madonna, si chiama Zona Rossa. Sì, ho sentito. Se vedo, c'è la puntata su Tenet, una bomba. Solo una puntata io su Tenet. Solo una puntata. Poi tutte le altre sono venute per sbaglio. Detto questo, la questione è questa. Tutto a posto? Tutto bene? Ok, no, ti vedo un attimino. Ok, va, perfetto. Interagiamo col pubblico in sala, sei tra le 3.000 persone che sono qui oggi con noi allo ZAM. Fatemi sentire! Grazie Laura, ci vediamo domani, ciao. Detto questo, la domanda era questa. Tutto è iniziato con il nuovo Comitato di Liberazione Nazionale. Poi è proseguito con la critica università della strada, se non sbaglio. Poi è arrivato il diario del subcomandante Marta e adesso siamo per le strade con l'Armata Nera. La cosa che a me, cioè pensandoci un attimino, pensa che fatica mi ha fatto fare. Facendo fatica io a seguirti. Vero, bravo. Questo è tutta un'impalcatura, tutta una serie di situazioni, relazioni, elementi immaginari, che quindi magari aiutano a creare immaginario. Questo è il mio telefono che suona proprio adesso, lo lasceremo suonare. Io volevo chiederti se ci presenti, se ci racconti tutta la storia, perché secondo me raccontare la storia di tutti questi elementi inizia ad avere il suo valore per creare immaginario in maniera complessiva, che forse era quello che volevi fare, forse. Nel frattempo rispondo al telefono. Pessimo. Innanzitutto ciao, è sempre un piacere tornare qui. Quando è che era l'ultima volta che sono stato qui? E faceva caldo forse. Forse non è vero, faceva no. Freddo era. No, diluviava l'ultimo. Esatto. Che siamo venuti qua assieme, però vabbè. No, perché ero al lock, vero? Esatto. L'origine delle origini. Il progetto in sé è nato durante la primissima fase della pandemia, quindi a marzo 2020, in cui sono coincise due cose sostanzialmente. Una fra tutte. La pandemia, ovviamente, che mi ha dato un sacco di tempo libero, nonché la disoccupazione. Purtroppo per noi. La disoccupazione non economica, ma solo del tempo. Niente anaspi per Francesco. Esatto. E contemporaneamente appunto all'essere chiuso in casa, ho avuto la brillante idea di lasciare l'università, ovviamente a causa del Covid, senza stare qua a spiegare il perché e il per come, semplicemente ho deciso di lasciare la magistrale che stavo facendo. La seconda cosa importante è che mese più, mese meno, giorno più, giorno meno, è stato un periodo di cambiamento nella mia attitudine alla partecipazione politica dal basso, diciamo, in cui ho deciso, per svariati motivi politici, personali e di impegni, di lasciare la vita politica collettiva, cioè quindi fatta proprio con altre persone, e volendo continuare a studiare per i fatti miei, quindi appunto l'università cioè, mi ha regalato la voglia di studiare, ma non nelle loro mura, e dall'altro lato la volontà di voler continuare a fare politica non nelle sedi, diciamo, canoniche, collettive, mi ha dato la voglia di continuare a parlare di politica. La pandemia mi ha dato la possibilità e il tempo di mettere la voglia dello studio e della ricerca, di trasformarsi poi in un progetto che appunto è iniziato quasi 2 anni fa, che adesso cammina quasi sulle sue gambe, in cui all'origine c'era semplicemente la voglia di tradurre nella forma più leggibile possibile, quindi secondo la mia analisi, attraverso le immagini, attraverso la grafica, che poi è quello che faccio, quelli che erano i miei pensieri politici riguardo alla pandemia, riguardo a quello che stavo studiando e riguardo alla mia esperienza. Appunto, per sintetizzare molto brevemente quello che poi ha raccontato, ancora brevemente, nel libro, che perché sono 5 pagine di prefazione, quindi non è che ci sia proprio super da leggere, ma è abbastanza spiegato bene, quello che in un anno ho tradotto in grafiche a partire appunto da marzo del 2020 fino a marzo del 2021, in cui ho raccontato attraverso una sorta di graphic novel, come va di moda dire adesso, ma è una raccolta di poster di appunto questo nuovo Comitato di Liberazione Nazionale, che ovviamente non esiste, quindi è una storia fantascientifica raccontata attraverso i suoi poster, come se fossero stati ritrovati un po' alla Manzoni, un po' alla Promessa Sposi, quelle che erano le mie riflessioni soprattutto su linguaggio, lessico, immaginario, diciamo del mondo extraparlamentare, comunque del mondo militante dal basso, tentando di fare una scommessa sull'innovazione, sulla rinuncia tra virgolette estetica di canoni e dogmi che hanno incancrenito e che incancrenivano un po' quello che sono i percorsi poi anche mediatici dei movimenti. E un anno dopo appunto mi sono anche stancato di fare questo ragionamento, nel senso che ero arrivato a più di 200 grafiche che appunto sono raccolte nel libro Là dove il nostro inverno diventa primavera, edito da Il Galleone Editore, che così il mio editore è contento. Giusto, tutta Radio Cina 1 che sì, pompa, sa, Il Galleone in massa, esatto. I libri, chiudere un po' quel percorso appunto il 21 marzo del 2021, che è il primo giorno di primavera appunto, Alexa Zerma liberata di Bari, che tra l'altro ricordo essere sotto sgombero, con un festival in cui abbiamo parlato appunto, abbiamo snocciolato un po' le tematiche della comunicazione e appunto del linguaggio, dell'immaginario, che in forma visiva erano raccontate, erano provocate, diciamo, nel suo essere del progetto l'anno precedente. Nella dovuta pausa delle 2-3 settimane che sono seguite a questo evento, ho cercato di capire come proseguire quel percorso che, bene o male, è piaciuto. Comunque diverse persone hanno trovato interessante, un po' su e un po' giù per l'Italia, è stato apprezzato ed è stato ragionato soprattutto, e l'idea, la prosecuzione, un po' perché c'erano già dei riferimenti a questa fantomatica critica all'Università della Strada nel progetto precedente, più da un punto di vista di immaginario, ho detto perché invece non farla realmente, perché invece non costituire, appunto, non in senso fisico, non in senso letterario, un'università, ma uno strumento che potesse essere formativo di liberazione di codici, di destrutturazione dei meccanismi che poi mi hanno portato effettivamente a costruire i ragionamenti che stavano nel progetto precedente, e di conseguenza ho cominciato a fare questa sorta di compendio delle mie conoscenze della strada, quindi dal come si sta in piazza nelle varie situazioni al come si attacchina, come si fa la serigrafia, di conseguenza comunicazione dal basso, eccetera eccetera, che sono quelle grafiche che sono per noi che guardiamo la sala lì a sinistra, per chi ci noi sta che guardando guardiamo la radio. Per noi che guardiamo la radio, esatto, qui siamo anche sì, sul canale di Sky, esatto, bravissimo, arriverà prima o poi. Beh, insomma, sono quelle grafiche là, quelle dove si spiegano alcune semplici strategie per affrontare la militanza giorno per giorno. E poi? E poi quello che è successo è che nel mentre producevo queste prime pagine del manuale, successe una cosa in valle che mi lasciò abbastanza così sconvolto, no, però mi accese qualcosa. È successo in valle, scusa. Quando Giovanna venne ferita all'occhio, rischiò di perdere l'occhio. Lo sgombero del... No, non era uno sgombero, in realtà era una giornata abbastanza normale in Valsusa. Ok. Se non per il fatto che, appunto, nonostante la polizia in Valsusa tiri lacrimogene dal terzo uomo da 30 anni, il caso ha voluto che a sto giro colpisse in faccia una persona e la mandasse all'ospedale per diverso tempo, rischiandola quasi... Non dico di far morire, però ci siamo andati abbastanza vicino. Lì mi è scattato qualcosa che mi ha fatto dire: il problema non è che non sappiamo come difenderci dai lacrimogeni, perché ovviamente chi di voi è stato in valle, è stata in valle, lo sa come ci si difende in modo, diciamo, più attivo, più passivo, però lo sappiamo fare. Sempre perché vediamo la radio, cioè, occhiate di complicità tra il pubblico, che succede talvolta. Maledetti, qualcuno è stato in valle? Pisti. Ma figurati. Mai non stato. Sono mai stato in valle, neanch'io. L'alloggione, qualcuno è stato in valle? No, nessuno, va, figurati. E la Valsusa è un posto che si trova... Vabbè, comunque, questa occasione è stata semplicemente, non tanto per il fatto in sé, ma è quello che mi ha fatto accendere la lampadina, che mi ha fatto dire: forse il problema non è che non sappiamo fare le cose da un punto di vista tecnico, perché i libri, internet, le esperienze personali ci hanno trasmesso nel corso probabilmente dei secoli. Più o meno ci si arriva, cosa devi fare? Sì, non per forza ci si arriva, perché poi i meccanismi di trasmissione di questa conoscenza non sono necessariamente fruibili a tutti, perché i meccanismi di movimento sappiamo come funzionano, purtroppo. Talvolta escludenti, talvolta. Talvolta. Quindi mi ha fatto dire: forse il motivo per cui ha senso proseguire per questo percorso di tipo formativo, che ha tentato e continuerà sempre a non essere mai di tipo prescrittivo dogmatico, ma più di indagine, più di provocazione, più di appunto spunto, è riflettere sul perché scendiamo in piazza in un certo modo, perché ci poniamo in una conflittualità di un certo tipo, perché non lo facciamo di un altro. Quindi riflettere un po' più sulla parte, diciamo, organizzativa, strategica di quello che poi è il nostro essere contro, diciamo. Nel capire come cercare di fare questa cosa, tra le varie cose che mi sono capitate tra le mani spulciando la mia piccola libreria personale, mi è capitato tra le mani il libro L'arte della guerra di Sun Tzu, che è un libro che è stato scritto 3000 anni fa, che è un libro che parla di guerra. Ah, ma allora non sbagliavo quando leggevo alcune grafiche. No, sì. Ah. Cioè, è proprio un libro che parla di come si fa la guerra, cioè di dove mettere gli arcieri, di dove mettere questo, di dove mettere quell'altro, di come organizzarsi l'accampamento, eccetera. Cioè, è un libro che parla di strategia bellica alla cinese, quindi molto poetico, molto... Un sacco di gigli, fiori di pesco, fiumi, cose, esatto. Buio, notte, giorno. Esatto. E proprio per il fatto di essere molto poetico è stato poi, e quindi interpretabile, è stato preso poi dal mondo della comunicazione, dell'economia, cinema. Del self-improvement, per poi essere tradotto appunto in un ambito che non è quello del conflitto, ma è quello della crescita personale, dell'economia. È tendenzialmente il modo con cui Gioia affronta la giornata. Gioia tutti i giorni, le tue di Sun Tzu, poi parte a andare a lavorare. Esatto. La scommessa che ho voluto fare è stata, diciamo, riportare pezzi di quel manuale, perché poi effettivamente è un manuale, all'interno di quello che è il suo ambito d'origine, cioè quello, nel suo caso specifico, bellico, nel nostro, quello del conflitto, quindi con un'operazione di traduzione anche in termini di contemporaneità, se volete. E quindi è cominciata questa operazione che, sempre attraverso l'illustrazione e la grafica, ha cominciato a buttare fuori le prime citazioncine, le prime aforismi, le cose a cui poi si sono aggiunti non solo quelli di Sun Tzu, ma altre cose scritte da me, scritte da altri pensatori del, sostanzialmente del Novecento, rivoluzionari di vario genere, con l'aiuto, però, a differenza del progetto precedente, della mano di illustratori e di illustratrici che, a differenza mia, sanno illustrare, e quindi alcune delle opere che vedete esposte qua attorno sono appunto illustrate da gente che lo sa fare, perché io non lo so fare, lo stile, se ci fate caso, si vede, però appunto con questa opera, diciamo, di art direction da parte mia, che proseguirà penso per un bel po', perché siamo a 34 grafiche, quindi 34 poster su un progetto che ne vuole 161. 161 non è un numero a caso. No, esatto. Ma questo lo lasceremo alle domande. È il numero, esatto. Adesso lo lasceremo. Tombola della smorfia. Esatto. Domanda. No, al microfono però. Al microfono. Perché il 161? Devi fare il microfono, per forza, così. È radio, non si vede. Non si sente. Si sente tanto così. Volevo capire io cosa vuol dire il numero 161. Grande Greta, grazie! Grazie Greta! Cosa vuol dire il numero 161, Fra? Allora, 161, esattamente come il 1312, se lo trasponete in lettere, diventa AFA, che sta per Antifascist Action. Tac! Capito? Che però è una delle sigle, non so per quali leggi strane che c'hanno nei paesi del nord, per cui non possono dichiararsi esplicitamente schierati in un certo tipo, quindi utilizzano questi stratagemmi di tipo così cabalistico, esatto. E a me piacciono questi giochini mentali, e quindi tanto quanto appunto Critica Università della Strada, fondata dal 1312, non è dal 1312 che sta roba esiste. Coetanea di Dante, più o meno, esatto. Mentre Dante scriveva la commedia, a Firenze qualcun altro inventava con la polizia. Come, scusa? Non mi alzo mai. Coetanea anche dello Zami Pop Lab, come tu ben sai. Dal 1312. Sì, è stato un anno molto produttivo per un sacco di cose. Minchia, e pensa il 13 dicembre del 1312, quanto si era... In cui, tra l'altro, festeggerò... È nato? Il rap? Il lab. Ok. Anche sì. La presidente è nata a 13, è vero? Noi abbiamo compagna che è nata a 13-12. Pazzesco. Maurizio, stai attento! Grazie. Ed è anche il primo compleanno del libro che ha pubblicato il 13-12. Ma va! Minchia, le pensi tutte, eh? Sì. Che briccone, incredibile. Va bene, ma allora, a questo punto ci manca soltanto il subcomandante Marta? No, non è ancora finita la storia, ne manca ancora un pezzo. La storia. Era un modo per dirti taglia. La grazie, storia è che nella prosecuzione del, diciamo, mondo fantascientifico costruito appunto attraverso l'archivio grafico del nuovo Comitato di Liberazione Nazionale, che vede la subcomandante Marta come portavoce X di questo comitato, l'idea appunto nel proseguire questa idea fantascientifica è stata quella di immaginarmi tale Marta che nel suo percorso di liberazione prende appunti, che poi io ho ritrovato esattamente come l'archivio grafico, bla bla bla. Devi fare l'archeologo, insomma. Devo fare l'archeologo. Però appunto è la scusa narrativa per dire questi appunti non sono roba mia, ma sono un'eredità, diciamo, collettiva del futuro, del passato, di chi la vuole prendere, che forse può permetterci di rimettere in discussione il nostro fare conflittuale, ma anche organizzativo, anche interno, il cui tentativo appunto è di esplorare le tematiche non solo della conflittualità più grezza, più evidente, più pornografica, anche se volete, ma di come funzionano i collettivi al loro interno, dei meccanismi di cura, della gestione, del benessere, diciamo, del collettivo e del poi la parte procedurale del dire scendo in piazza, non scendo in piazza, scendo in piazza così, scendo in piazza cosà, in questa notte faccio così, in questa notte non faccio questo, eccetera. Quindi di proporre, appunto sempre in maniera non verticistica, ma neanche orizzontalistica, ma semplicemente come provocazione, la riflessione sulle tematiche che poi ci accompagnano da sempre, quindi del chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo, perché lo facciamo. Ma domandina così nel mezzo, prima di arrivare a per le strade con l'Armata Nera, è una donna, cioè una compagna per un motivo o una compagna perché così ti è venuta creativamente? Cioè il subcomandante Marta è Marta e non Marco e non un altro nome, vabbè il nome è che se ne frega, però è il fatto che sia una compagna, è una roba voluta, pensata o è una, soltanto un'idea così mi è venuta in mente, come la chiamo Marta? Vabbè, allora di base c'è il richiamo tra Marcos, Marta, quindi c'è un po' questo gioco. Cazzo, non pensavo di averci preso invece, figa, ma che roba. Dall'altro lato ho sempre cercato qualche grafica mi ha creato non pochi problemi, cioè non problemi, però diciamo ha creato discussioni, conversazioni anche molto stimolanti, tipo quella che vedete alla vostra sinistra, quella lì. Quella che potete vedere anche voi alla radio, che ci ascoltate tutti, esatto, e tutte. Esatto, voi con gli occhi della radio. Karim, ciao, tutto post, bene, grazie. Per tenere il pubblico sveglio, attivo, perché sennò qua... Cercare sempre di porre l'attenzione, diciamo, su non tanto la minoranza, ma sulla rappresentazione eterogenea delle diversità e quindi delle complessità che poi appartengono al movimento o che il movimento vorrebbe provare a rappresentare. E, di base nasce da un gioco di parole che si può ritrovare anche in una citazione famosa di, appunto, di Marcos, in cui dice: Marcos non è una persona, non è un'entità, non è una... È un simbolo, di conseguenza è, mi sembra che lui citi il gay a San Francisco, la disoccupata, l'operaio, la donna violentata. Ma anche cioè, l'anarchico tra i comunisti. è vero, bellissimo. Sì, no, nel senso, importanti. È un'idea di pluralità che attraverso, nel suo caso, il passamontagna, eccetera, in particolar modo come portavoce, quindi subcomandante, non comandante, quindi... l'ultimo non parlare ultimi. Più degli zapatisti che sennò inizia a piangere, troppo bene. Però appunto era fare un po' questo gioco di rimandi che e quindi per la strada con l'Armata Nera come arriva? Per la strada con l'Armata Nera è semplicemente il titolo, sì, di questa raccolta di appunti che appunto per la strada con l'Armata Nera, quindi che è la 161esima bla bla bla, che fa un po' riferimento alle brigate della resistenza che erano a Bergamo, c'era la 53esima per dire, io ho detto facciamo la 161esima, che quindi tutti i rimandi vari con i numeri, ti piace, insieme, piace, piacciono sacco. Queste cose, questo. Quindi la storia dell'Armata Nera di Mac non c'entra niente? Sì, c'entra. Quindi non sei un finto rivoluzionario falso comunista e quindi sei ancora degno di rispetto? Sì, va in quel senso lì? Dopo quando mi vedrai nudo in casa ne riparliamo. Va bene. E potrei così giudicare tutti i miei tatuaggi contro rivoluzionari. Madonna santa, chissà quante avrai sul corpo, mamma mia. Neanche una. Devo lavarti con la candeggina. Neanche una. Va bene. E allora a questo punto avevo delle domande intelligenti, ma... Sì, ovviamente come vedete lo stile è assolutamente amichevole, anche perché Francesco è una brava persona e io sono un cane di merda a parlare, per cui se volete parlare dire cose tranne Laura, grazie, e chiunque può essere, ciao Giulio, tutto bene? Posto perfetto? Bene. Ma innanzitutto era chiaro quello che ho detto? Era chiaro? No, non era chiaro? C'è qualcosa, attenzione, che non è stato compreso? C'è una persona che si tocca. No. Prosaicamente lanci il sasso ma nascondi la mano? Non si fa così. Perché poi quello lo facciamo di solito comunque. Esatto. Sto per fare un intervento ignorante, però per chi non conosceva il progetto, fino in fondo ve la siete giocata molto, ma non ho capito tanti passaggi. Tipo? Mi stai mettendo in difficoltà, ora è il momento. Non ha capito niente, quindi. Grande Laura, è giusto così, tu volevi parlare con qualcuno. Non ho capito, finalmente qualcuno che ammette la cruda verità che non ha capito niente. Comunque in sala ovazioni, in sala ovazioni. Beh, allora, aspetta, parentesi, è un progetto che dura quasi da 2 anni, quindi volendo... Era difficile da strizzare. Andare a raccontare nello specifico potrei metterci 3 ore. Ah, sì, strizzare. No, ma, la questione è qui, proviamo a fare un riassuntone. Il punto è questo, a un certo punto il caro Francesco ha capito che c'era un modo di porsi nel movimento che era un po' escludente perché parlava per gli stessi modi di parlare da tanti anni quantomeno, e che quindi racchiudeva dentro di sé sempre gli stessi significati, presupponendo che dall'altra parte ci fossero già persone che li capivano, li comprendevano. Io non ti sto capendo. Perfetto. Però Laura sì, hai capito. Perfetto. Così. E pensa su Radio Cina 1 come cazzo capiscono bene. Quindi, tornando quasi indietro, la seconda cosa è questa. Il buon Francesco ha notato che nella comunicazione di movimento c'è tutto un modo di fare che un po' ha seguito la comunicazione di massa, per cui l'evento, le grafiche che seguono gli stili ricorrenti oppure si contrappongono in maniera molto, cioè proprio contrappositiva, per cui tu fai quello, io faccio l'esatto opposto, eccetera, eccetera, e che soprattutto mancava dalla comunicazione tutta quella capacità di indicare i comportamenti giusti. Che presuppone il fatto che forse nella mente di chi comunica non c'è un pensiero chiaro, semplice, netto di che cosa indicare. Madonna, come sei labirintico comunque. Ma non è vero, ma che cazzo dici? Ma si capisce? Ti faccio un esempio. Labirintico, vabbè, labirintico, non so. Puccio il microfono nel rosso, e poi è bianco. Come quando Berlusconi diceva quelle robe sulle SS al Parlamento Europeo che le scaltavano la musica sopra. Vabbè. altre storie. Sì, che alzavano la musica. Vabbè. Scusate. Cose che ho scoperto recentemente. Vai, rispondi! No, una cazzata a parte. Un esempio. Durante il mio percorso di, diciamo, militante all'interno dei collettivi, una delle tematiche che spesso e volentieri è emersa diciamo nel livello locale, ma anche poi in quello che è stato a livello nazionale attraverso assemblee, eccetera. C'era la volontà di rinnovare il linguaggio, appunto, dell'immaginario antifascista, contemporaneo, eccetera, eccetera. Nel tentativo di rinnovare questo percorso, o comunque questo modo di porsi con, diciamo, l'esterno, la mia insofferenza è stata dovuta, tra virgolette, al fatto che se la volontà c'era, la voglia pratica di rinunciare alla bandierina, al simbolino, alla frasettina, alla retorica specifica, eccetera, non c'era. Dopo un tot, appunto, che è stato uno dei motivi per cui a una certa ho detto «sapete che c'è, faccio le cose per i fatti miei», che poi appunto non è per i fatti miei, ma che comunque arriva da un portato di tipo collettivo, ma in cui io ho semplicemente collegato i puntini, ho detto proviamo a raccontare questo immaginario, però, appunto, per fare l'esempio, rinunciando alla parola antifascismo. Si può fare? Mi sembra che, se guardate il libro, il contenuto antifascista, anticapitalista, antisessista traspare, però le parole antifascismo, anticapitalismo, antirazzismo non compaiono mai, tanto quanto non compaiono mai la falce martello, la cerchiata o i soliti simboli di movimento, perché appunto il mio è stato un tentativo di anche di violenza, perché poi è anche quindi movimentista. Movimentista, antimoderatore, tra virgolette, nel senso che un'altra grossa problematica del movimento è stata la tendenza alla moderazione per cercare di essere più inclusivo verso un mondo esterno che non è politicizzato, che secondo me è una scommessa persa in partenza. C'è quella grafica bellissima su DDL Zan che secondo me dopo bisogna parlarne. Come lì hai centrato la roba, la Zan grafica Zan. No, l'altra. Ma vai, continua, continua. Poi il carro armato? Sì, anche il carro armato, sì. Stiamo per parlare di carri armati? Stiamo per parlare di carri armati. No, non stiamo per parlare di carri armati. Peccato. Dopo da ubriachi. La mia scommessa è stata appunto dire noi siamo persone che hanno delle posizioni di tipo radicale, estremiste, tra virgolette. Siamo una minoranza della minoranza della minoranza rispetto a quello che è il panorama, diciamo, politico, nel senso più ampio di quello che è il fare politica all'interno del Parlamento e fuori dal Parlamento, cioè siamo quelli che, quelli e quelle che vogliono cambiare le cose in un certo modo, in maniera radicale. Quindi raccontarci in maniera moderata a un certo punto diventa poco produttivo, cioè nel senso è controproducente veramente, nel senso che se il ragazzino o la ragazzina la tiri in mezzo dicendo ah sì, facciamo questa cosa tutta allegra, simpatica, e poi gli dici ah sì, adesso andiamo a tirare le bocce, cosa che comunque non facciamo, e il ragazzino o la ragazzina a un certo punto si trova un attimo spaesato, nel senso ah sì, ma tu non eri quello delle grafichette tutte color pastello? Rossa e nera o verde. Quindi la mia sfida è stata anche da un punto di vista di tipo visivo, di dire rivendichiamoci la nostra violenza, che per me non è violenza ma è desiderio di conflittualità, perché poi appunto c'è una grafica dietro di voi, tra l'altro quella abbastanza violenta. Il Colosseo che brucia non l'avevo ancora vista. Quale Colosseo che quella brucia? Quella che al centro con i due occhi. È un copertone. È un copertone, da qua sembra il Colosseo. Ce n'è un'altra col Colosseo che brucia però. Oh, a me fa l'impressione della Madonna, quella con la lametta nell'unghia. Che ho un esatto. Male. No, stavo parlando esattamente di quella. Di quella. Quella con la lametta nell'unghia parla esattamente di cosa è violenza, cosa non è violenza, o meglio, tra la differenza tra violenza legittima e violenza illegittima. Il discorso è, cioè si può parlare di conflittualità senza parlare di conflittualità nei soliti termini retorici di noi facciamo questo, facciamo quell'altro, scendiamo in piazza, lotta di classe, eccetera, che sono termini che si può dire sono un po' obsoleti, non obsoleti per il loro significato intrinseco, obsoleti per il livello di leggibilità che ha, diciamo, il mondo contemporaneo. E quindi appunto il progetto dell'anno scorso sostanzialmente si è occupato delle tematiche di questo tipo. Il passo successivo è stato dire ok, quello è andato come è andato, chi ha voluto capire ha capito, chi non ha voluto capire comunque non ha capito, magari capirà, magari no, mi interessa fino a un certo punto, proviamo a continuare quel percorso di tipo narrativo, quindi sempre rosso, bianco e nero, sempre l'impostazione grafica di un certo tipo, sempre la stessa font, cioè sempre lo stesso percorso, quindi appunto la stessa narrativa, quindi il diario ritrovato degli appunti presi da un'ipotetica campagna di liberazione. Sì, queste cose, queste scuse, eccetera. Per dire che non è roba tua, insomma. Sì, sì, sì, sì. Due di altri, e altre. Ho visto recentemente V per Vendetta, visto che oggi è il 5 adesso novembre. Adesso l'hai visto, minchia? Ieri, l'altro ieri. Ma perché non l'avevi mai visto? No, sì, l'ho già visto. Ah, ok, l'hai rivisto. L'ho rivisto, oggi è il 5 novembre. Io però non ho mai visto L'Odio, mai. Vergognati. Grazie, te lo giuro. Vergognati, qualcuno sì, faccia vedere L'Odio. Oh, tutti i tutti miei compleanni. In versione arancia meccanica a Gulli. Così, con le occhie, con gli stuzzichini. In cui dicevano, gli artisti mentono per dire la verità, i politicanti mentono per nasconderla. Per lavoro. Vabbè. Quella roba lì. Cose così. Il discorso è, io attraverso un complicato sistema di specchi e leve ho cercato di trasporre questo racconto fantascientifico in provocazione per tentare di stimolare poi appunto riflessioni che magari possono tornarci utili nel recuperare la nostra voglia di cambiare il mondo in maniera radicale e soprattutto efficace, perché uno dei grossi problemi che io ho vissuto anche in maniera proprio strettamente mia è la differenza che c'è tra il volere, il desiderio e il poi riuscire effettivamente a raggiungere i propri obiettivi rimanendo coerenti con i propri principi e con il proprio modo di essere gruppo, collettivo, e eccetera. Questo è un po'... Laura, hai capito? Sì. Dovrei bere di più, lui. Forse allora. Dovresti bere di più, sì, può darsi che abbia senso. No, allora, a parte il fatto che ovviamente invito tutti e tutte a intervenire, perché così è più bello e più divertente. Io volevo fissarmi su alcune grafiche, ma forse non lo vai, farò. Vai. Mi fisserò sull'unica che non è appesa, che è quella che citavo prima di DDL Zan, perché forse non hai fatto nemmeno in tempo a stamparla. Ma non so di quale stai parlando. È quella con il cavallo e sotto l'arcobaleno. In quella in cui è nel dici libro. Giustamente, è nel libro. Quella in cui dici giustamente, non ti sorprendere se la via moderata ha fallito. Perché dopo tutto, ah, no, hai visto quella. Che la legge c'è? Non, che no, non c'è quella, non è quella su DDL Zan. Cioè, è una grafica che ormai un anno fa creai, diciamo, a tema diversità, chiamiamolo così. Diversismi. Diversismi. Che poi col fallimento, il naufragio catastrofico, ma neanche troppo prevedibile, cioè imprevedibile, del DL Zan, ho recuperato e ho affiancato a quella che poi è la citazione di quella che vedete sulla colonna, che è magistralmente illustrata da Federico Fabbri. Li sa tutti a memoria, raga, li sa tutti a memoria. Eh sì, che dice che la moderazione come unico. Oddio, cosa che dice? Non li sa tutti a memoria. Qualcuno no. Legge. La moderazione come unica forma accettabile del dissenso è un'invenzione dei privilegiati, cioè... E tu che pure lì dai corda, no, cioè veramente, mancava... sei pessimo, sì. Pessimo, terribile. Deve essere il secondo intervento di Greta al microfono in una sera e tu così. Vabbè, ho rotto tutto, ho rotto la radio. Esatto, basta, niente più Cina 1. No, che è stato un po' lo spunto per riflettere anche su quelle che sono state per esempio le mobilitazioni post fallimento del DDL Zan, che io ho visto in prima persona a Roma e... Vedere Raffaella Carrà come massima espressione del conflittualità, della rabbia, di una comunità, ti dico, mi va bene. Ma tu volevi carri armati. Io volevo i carri armati, ma questa è un'altra storia, però è uno spunto che può far riflettere, cioè nel senso la tendenza alla moderazione è un sintomo, secondo me, e qua scendiamo su un terreno problematico, di un'idea della democrazia che non è reale, cioè che non è assolutamente vicina a quello che poi effettivamente succede nella democrazia rappresentativa. Ma poi questa è una mia opinione, perché appunto io ho delle mie opinioni politiche che emergono, che emergeranno sempre, ma che io tento di non porre come appunto mia visione politica nelle mie grafiche o nelle grafiche che altre persone illustrano, ma che provano a essere spunti di riflessione, ovviamente che hanno una direzione di tipo conflittuale, non di tipo vogliamoci tutti bene e anche se tu sei un po' per l'amore universale. Non tanto. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però appunto il discorso è cercare di smuovere e soprattutto di riferirmi a persone che già fanno politica, perché una delle cose che mi hanno fatto sempre notare è che una persona che non ha mai fatto politica, che non ha neanche la predisposizione diciamo emotiva alla politica come ente astratto, come coscienza astratta, non è in grado di leggere quello che io faccio, ma perché non è rivolta a quella persona. Quello che io faccio è rivolta alle persone che già fanno politica, che hanno già una coscienza o comunque che hanno già una voglia, un desiderio magari anche un po' da scoprire di cambiamento radicale, e lo possiamo vedere dalle tematiche transfemministe, da quelle ambientali, da quelle del lavoro, che però magari non trovano espressione in poi effettivamente quelle che sono le situazioni reali. Per citarne una successa recentemente, dall'occupazione dell'università per bisogni di spazi alla crisi climatica ai femminicidi, cioè nel senso c'è tanta retorica, c'è tanta voglia di fare. Io ho scoperto in un anno di tour che paradossalmente le persone, soprattutto quelle più giovani, hanno una gran voglia di conflitto, ma le organizzazioni, le istituzioni ormai quasi che sono predisposte a questo tipo di attitudine sono molto chiuse, sono molto conservatrici e quindi non riescono a esprimere appieno la loro voglia di conflittualità. Non a caso, dopo una pausa del manuale, ho ricominciato a ampliare il manuale proprio perché le giovanissime mi chiedevano: che figata, non sapevo che un estintore si potesse riempire di vernice e utilizzarlo per fare scritte alte 5 metri, come non sapevo che se, altro esempio X, che se metto della polvere di vetro nella colla con cui vado ad attacchinare quel manifesto non me lo tirano giù, o comunque me lo tirano giù con più difficoltà. Esempi stupidi, però c'è voglia di questa cosa. C'è voglia di superare quella stagnazione anche un po' incancrenita del fare le cose sempre allo stesso modo, ci sono i fasci in piazza, scendiamo tutti in piazza a fare il corteo, ma poi in corteo ti trovi in cinque, quindi allora il corteo, cioè questo loop infinito che dura, io dico da 20 anni, ma potrebbe non essere da 20 anni. Di base mi piace pestare i piedi a destra, a sinistra, sopra, a sotto e vedere cosa succede. Però adesso c'è un disegno di legge contro le organizzazioni neofasciste. Stiamo per vincere, fra. No. Abbiamo vinto? Abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto. Certo. Sono molto contento. Segui silenzio. Sì. Segui un po' di silenzio. Com'è così. Che era? Quello del... Vabbè, grazie, grazie comunque lo stesso. No, allora, io in realtà prima ho fatto la battuta su Sun Tzu perché avevo visto questa grafica. Questa grafica che è alla nostra destra, e non leggerò perché è un testo lungo che vi invito a leggere, comprare, cercare, guardare ovunque, che mi sembrava proprio fare riferimento a Sun Tzu, o anzi essere addirittura una citazione. Poi non so se in realtà quando tu hai fatto delle citazioni l'hai scritto, l'hai indicato, perché in tante grafiche citi un po', almeno a mio dire, a mia personale opinione, citi un po' quantomeno lo stile di Sun Tzu nel scrivere. Sì, nel senso che alcune sono prese e tradotte, cioè tutte quelle citazioni che ci sono prese e tradotte. Adesso Sun Tzu nell'arte della guerra non mi ricordo quante sono, ma credo che siano circa 200. Sarà dal momento di setup che caricano la stufa, perché ci sarà uno sgocciolio che entra nel microfono secco. Ah, suoni rilassanti. Questo è il mondo agricolo, quindi è il nostro mondo agreste. Come dici, scusa? Tosse. Colpi di tosse sottofondo. No, perché abbiamo una fantastica stufa a pelle, che ogni tanto va ricaricata. Questo interessa soprattutto agli ascoltatori di Radio Cina 1, che di stufa a pelle sanno abbastanza. Il pellet non hanno. Là nella tundra della Mongolia, che non è Cina, ma lo diventerà presto. Senza problemi. No, stavi traducendo. E le tradotte quindi? Dal cinese? Sì, antico. Dal cinese. Mandarino. No, nel senso che le citazioni che io ho riportato di Sun Tzu, ma come delle altre persone che vengono citate, sono state non tradotte, non è la parola giusta, attualizzate, nel senso per cui invece che essere l'esercito nemico diventa la forza tua avversaria, ad esempio, quindi non è, perché non si parla di guerra, ancora più generiche, nel senso che noi sappiamo chi sono i nostri nemici, sappiamo qual è la nostra forza avversaria, ma non abbiamo un esercito nemico, quindi necessariamente c'era bisogno di un'operazione di sostituzione, di terminologia, per rendere comprensibile a oggi di quello di cui stiamo parlando. Quindi, leggendo queste grafiche che ogni tanto riportano queste frasi, talvolta perché è una postura che Sun Tzu ha e la filosofia cinese della strategia ha, pare che ogni tanto si facciano dei riferimenti non soltanto alla dimensione di gruppo, ma anche alla dimensione individuale interna della persona, riguardo a come si deve porre per fare le cose, ovvero organizzazione non è soltanto mi segno tutti gli appuntamenti del mio collettivo o il mio collettivo organizzato. Organizzazione vuol dire anche che la persona nella sua mente ha un modo di ragionare per cui affronta i problemi in maniera organizzata o si organizza per affrontare i propri problemi. A questo punto quindi arriva la domanda: quanto di queste grafiche riguarda anche la singola vita degli individui con se stessi e non soltanto la dimensione di gruppo per fare politica? Allora, ti rispondo come... Qui stiamo arrivando al marzullianesimo, tra un po' arriva, attento. Fatti una domanda, datti una risposta. Esatto, arriverà. Ne stavo parlando prima con una delle ragazze che è nel pubblico adesso, e parlando proprio di cos'è politica. La definizione di cosa è politica viene data in 40.000 milioni diversi di modi, dalla filosofia politica alla scienza politica alla libera interpretazione personale. Io ho scelto di dare una mia libera interpretazione a questo termine, avendo studiato filosofia politica, avendo studiato scienza politica, che sono due ambiti che si fanno abbastanza cazzotti tra di loro. E ho detto, sapete che c'è? A me non interessa nessuna di queste due visioni astratte. No, cioè, dopo arriverà, c'è chi ride nel pubblico, domanda, ma non ha capito un cazzo. Arriverà la domanda. La mettiamo qua in mezzo e la distruggiamo. Ho un certo esame di filosofia politica che ho sentito, sì, in arrivo. Il dottore della sociologia, invece, allora. No, la definizione che io sono riuscito a darmi, tra virgolette, è che se c'è una definizione di politica che a me piace, che mi sento di rivendicare, è che politica è relazioni, o meglio, è la scelta di relazione nei confronti di se stessi, se stesse, se stesso, del proprio corpo, quindi non solo della propria personalità, all'interno in autoriflessione, all'interno in relazione con altre persone, all'interno di comunità, all'interno di comunità più ampie, all'interno di macrosistemi, in relazione con i luoghi, in relazione con il consumo. Quindi politica è come scegli di comportarti in relazione a. In questo senso è ovvio che se io ho interesse a parlare di politica, mi interessa parlare di politica a partire da quello che è la visione personale, individualista, in questo senso, nel senso, passami il termine, non odiarmi, anarchico del termine individualista. Mi sopporto solo perché sei tu, guarda. Esatto, però di questa differenza tra quello che è individualismo e egoismo, e di conseguenza poi in relazione, diciamo, ecologica, a quello che è poi l'esistenza tutta, cioè io con gli altri, con le altre, io con la comunità, io con me stesso, io con quello che consumo, io con quello che consumiamo tutti insieme. Quindi, cioè, politica è relazione in questo senso. È nel senso della presentazione, è nel senso delle grafiche, è nel senso delle grafiche che trasmettono qualcosa in senso dogmatico, non dogmatico. Cioè, è quel meccanismo in cui tu cerchi di costruire un meccanismo di trasposizione tra te stesso e gli altri. Quindi gli individui per forza, cioè, vengono toccati dal come fanno politica, perché se di fatto scelgono come impostare le proprie relazioni, come le impostano, come le vivono. Perché politica è relazioni. Politica è la scelta del come fare le relazioni. Adesso ho capito molto meglio quella grafica. Indico col dito la grafica, ma voi non la vedete alla radio. Il radio indica. Radio indica quella grafica. Che tra l'altro, se ci fai caso, è una persona che si guarda allo specchio. Cazzo, che genio! Bravissimo, è fortissimo. Qualcuno ha studiato comunicazione. Mamma qui, mia, ma veramente, veramente. Qualcuno invece ha studiato sociologia. E quindi a questo punto chiediamo a chi ha studiato sociologia, si trova adesso in sala, di fare una domanda intelligente a Francesco. Ma no, ma io non ho una domanda, è che ho riso nel momento in cui ha fatto l'elenco, la spataffiata di tutti i vari percorsi di studi che possono esistere sulla politica e insomma che hanno definito, hanno studiato la politica, però se ne è dimenticata una che è importante, che è la sociologia. Quindi la, sociologia di come parla della politica? Vabbè, questo che cazzo ne so. Qualcuno, cioè, deve fare il ripasso, mi no, sa un po' tutti. Ma no, non tutte. È che ti insegnano cos'è la politica, sicuramente un corso di sociologia ti aiuta ad avere gli strumenti per poter definire in primis tu stesso che cosa può essere, quindi come diceva anche Fra, partendo dal personale, che cosa può essere. Sinceramente mi trovo anche in linea con quello che ha detto, cioè il personale politico, banalmente fino a un certo punto, però per esemplificare un po' la cosa. Beh, adesso io continuo da qua, sto comodissimo, sono troppo bello. No, non è vero, torno di lì. Non è vero, è bruttissimo, no, non è vero. Da qui. Non è vero. Sono da questa parte e invito sempre comunque chiunque a intervenire, a dire qualcosa. A questo punto, dato che io ieri sera ho origliato dopo mesi un'assemblea molto interessante che parla di antifascismo in ambito nazionale, che noia. Un ambito che tu forse hai conosciuto, in quest'ambito si parlicchiava, si proponeva di provare a pensare a questa cosa. A questo punto la lancio così sulla cronaca del quotidiano, nel frattempo che pensa un'altra domanda. Era questa la domanda: dopo 2 anni di pandemia, dopo l'emersione del Green Pass come problema di ordine pubblico nonché di organizzazione della società, in questo momento chi e cosa è fascismo, chi e cosa è, potrebbe essere antifascismo? Vedi che schivo il marzullianesimo, lo schivo subito e torno. Oddio, mi sa che sei cascato proprio in pieno sul marzullianesimo. Non è vero, non è vero. Allora io ti dico, sulla questione specifica X del Green Pass non ne parliamo nemmeno. Non ne parliamo. Il punto ma è identificare il nemico. Grazie mille, bellissima risposta, grazie. Il punto secondo me adesso è chiederti questo: ma chi è adesso il nemico? Sei tu. Cioè, in questo momento vorrei solo tirarti un cazzo. No, ho ancora un sacco di bianco per te, per cui non sono il nemico. Hai visto? Quindi la questione è: chi è secondo te il nemico? Cioè, quando si parla di forze avversarie, in questo momento chi sono e come si comportano? È una bella domanda. Nel senso che, allora, è quello che stavo per dire prima che tu mi interrompessi in modo molto violento. Vuole intervenire anche... Adesso ci arriviamo. Quando ho fatto la mostra a Trento, che è stata tra l'altro mostra più una delle feste più belle che io abbia mai fatto, cosa stai facendo? Ok. A un certo punto mi si è avvicinata questa signora molto poco lucida, che ha cominciato ad interrogarmi su cos'è il Green Pass, come mi comporto nel Green Pass, senza scendere nei dettagli del fatto che stessi per mettergli le mani addosso. La questione è che le rotture, diciamo le storture, i crimini anche se vogliamo, a mio parere, di questa società erano già evidenti nella nostra società prima della pandemia, erano magari evidenti più a persone che si occupavano di queste tematiche, quindi diciamo noi, sappiamo già chi sono i nostri nemici, e uso il maschile non per caso, e come non è utilizzato per caso quando mi riferisco al nemico sistemico, che è un nemico sistemico che è di sistema esterno, quindi di come funzionano politicamente le relazioni della nostra vita, quindi attraverso il consumo, attraverso la speculazione, attraverso anche l'egoismo, ma è anche un nemico interno e interiore, cioè che abbiamo interiorizzato questi meccanismi di speculazione, di avidità, anche emotiva, psicologica, di bisogno necessariamente di affermazione. Personalmente io non credo che il gruppetto X che ha assaltato la CGL di Casa Pound sia nostro nemico, aspetta, nel senso, sono nostri nemici, ma quanto ci ha roso il culo il fatto di non averlo fatto noi? Ad esempio, per buttarla proprio in cacciara, il discorso è, non è Casa Pound che governa il nostro mondo, come non è il PD, come non è Fratelli d'Italia, come non è il partito X, è Mario Draghi. E lo dico, è Mario Draghi. Ma non è manco Mario Draghi, perché lui è emanazione. Sì, di cose, però molto se noi simili. Ci definiamo, se noi in questo momento ci definiamo realtà extraparlamentare, tutto quello che è parlamentare è nostro nemico, paradossalmente. Di conseguenza è nemico anche. Inizia a fare radicale, che non è a fare radicale. Il discorso è che è un nemico di regime, è una differenza sostanziale tra quello che è democrazia ipotetica, democrazia diretta, e poi democrazia come regime, quindi in Italia, caso specifico, democrazia rappresentativa, che non è la democrazia che ci hanno raccontato che ha vinto nel 1945-46, scusa, non è quello. Cioè, perché nel 46 non abbiamo vinto noi, ed è uno tra l'altro dei passaggi che è raccontato ad esempio nel libro, quella di disertare tra virgolette il 25 aprile, che non è un passaggio semplice da un punto di vista di immaginario, dire a me il 25 aprile fa schifo, perché quel 25 aprile non abbiamo vinto noi, quel 25 aprile ha vinto un sistema che non è quello che ci piace, che è quello... Ha vinto compromesso. Non è compromesso, perché non è compromesso, perché tra democrazia rappresentativa e monarchia, tutto quello che ci sta oltre e non era il nostro, chiamala comunismo, chiamala anarchia, chiamala come ti pare, non è tra quei due modelli di regime proposti. Non a caso, successivamente, da un punto di vista storico, i movimenti extraparlamentari, le formazioni comuniste, le formazioni anarchiche sono state represse con le stesse formule che poi erano del fascismo. Quindi, se proprio dobbiamo fare due conti, la democrazia rappresentativa non è fare democristiano, però la questione è che dopo il 45 aprile potevi scioperare, poi è vero che ti picchiavano, però sì, ma ti picchiavano anche prima, esatto, però potevi scioperare anche prima, diverso. Sì, non potevi scioperare prima, però fa niente. Vorrei ricordarti che fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, chi scioperava è stato investito, è stato picchiato, uno c'è anche morto, quindi voglio dire... Ma che la democrazia rappresentativa faccia schifo e che il sistema in questo momento sia comunque a tutela dei padroni maschi, devo bianchi, dire chi è il, devo dire chi è, devo è dire, abbastanza vuoi evidente. Sentirmi dire che il nemico è lo Stato? Vuoi sentirmelo dire? Dillo, non è che è un problema. Questo, perché poi potresti aggiungere questo Stato, perché poi c'è uno Stato che invece ci piace. Ah sì, quale? Oh, ma adesso faccio le battute brutte io. Tirami fuori Kim Jong-un della situazione. No, ma Pol Pot direttamente. Quindi la questione o comunismo cambogiano o morte. Basta cazzate, dai. Esatto. 5 minuti di cazzate già dette, però la questione no, che assolutamente io capisco quello che dici, anche perché molte volte ci si trova, soprattutto con l'antifascismo, quando parlavi di disertare il 25 aprile, a rendersi conto che, soprattutto l'AMPI, difende un'idea di 25 aprile che ha completamente fallito, cioè sostenere che siamo in uno stato antifascista, per cui la cosa giusta da fare quando vedi un fascista è chiamare i carabinieri, perché la Costituzione ti difende, verrebbe voglia dire: carissimo, svegliati, perché i carabinieri probabilmente hanno la celtica in caserma, fanno il saluto romano o hanno l'amico fascista, e tendenzialmente questo stato sicuramente è tutto fuorché antifascista, per cui ci spiace che tu non abbia capito. Guardate, che dopo il proprio 45 hai cambiato più o meno un cazzo, sono d'accordo. Al tempo stesso, comunque, io dico, è un compromesso giocato al ribasso. Ovvero, è verissimo che si sarebbe dovuto andare molto più avanti del 25 aprile. Per cui, in un certo senso, condivido assolutamente che il 25 aprile sarebbe da disertare e ricreare o ripensare o farne un altro, perché quello non ha cambiato. Ha cambiato molto, ma non ha cambiato sicuramente tutto, e forse ha cambiato in realtà poco rispetto al desiderio possibile. Guarda, ti faccio, prego. Visto che abbiamo tirato fuori il discorso 25 aprile, ti faccio il gancio. Un'altra delle grafiche che trovate alla vostra sinistra. Se tutto il pubblico alla radio è sopra. Esatto, illustrato magistralmente da Illustre Feccia. Qual è? Quella lì. Resistere. Esatto, che dice, e questa è una frase che ho scritto tutto io, cioè che me la sono inventata, ma perché arriva da un percorso, diciamo, di ragionamento linguistico. E di consumo di droghe smodato. Questo mi avvalgo la facoltà di rispondere. Che dice che la resistenza è un movimento che tende all'immobilità, tanto quanto la retorica sulla resistenza a cui siamo tanti affezionati. Il discorso è, se voi chiudete gli occhi e cercate di immaginarvi con un'immagine, proprio visualizzare nel vostro cervello cosa è la resistenza, tralasciando il discorso di quello che può essere l'ingegneria elettronica, la resistenza è una cosa che cerca di fermare qualcos'altro, ma non può essere un movimento, se proprio l'agitazione che ti permette di rimanere immobile, che ti permette di rimanere fermo, indietro. Di non andare indietro. Poi, su quello che poi è andare avanti o andare indietro, sulla retorica della resistenza abbiamo costruito tanto e forse troppo, perché indietro poi ci siamo andati e andate. Quando si diceva non un passo indietro, per fare proprio i puntigliosi a Stalingrado, da dove arriva questa citazione, non andare indietro significava non solo attaccare, non solo resistere, ma significava anche che se tu andavi indietro c'erano pronti i fucilieri dell'Armata Rossa che ti sparavano. Ah, questa mi sembrava un po' un'illazione, però adesso, è vero, cioè, però è vero, il discorso è, tralasciando era il popolo che correggeva il popolo, comunque tralasciando questi excursus storici, il discorso è che, riprendendo un discorso di Marcos del 2004, il tempo per resistere, oltre al fatto proprio tempo materiale del nostro paese mondo, che si sta esaurendo per la crisi climatica, personale, sociologica, eccetera, è finito. E soprattutto sappiamo chi è il responsabile, sappiamo chi sono i responsabili, quindi forse non è forse il caso di andare a pigliarli. Poi pigliarli e farne cosa è un altro capitolo, però resistere, per come io ho resistito personalmente, questa è, ripeto, una storia personale, per 10 anni all'interno di collettivi, all'interno di percorsi che nel resistere io ho solo visto marcire, citando Zero Calcare, marcire se non trasformarsi addirittura in meccanismi tossici e veramente brutti, non sempre, però tendenzialmente marcire. Resistere per resistere è un percorso che, e questo faccio un altro link con un'altra grafica, che è: non si può vincere solo resistendo, illustrata magistralmente da Laser Vitu. Ragazzi, dov'è? Alla vostra destra, su una delle finestre. Per chi guarda la radio in basso a sinistra. Esatto. Il discorso è proprio questo, cioè superare la retorica della resistenza, superare, ma non solo da un punto di vista retorico, ma proprio del fatto procedurale, del cosa significa resistere, cosa significa, cioè la differenza tra resistenza e liberazione. La liberazione non è stato un meccanismo che sopravviveva nel proprio bunker sui monti, era un movimento che faceva azioni, era un movimento che faceva una cosa, faceva l'altra, sabotava, intercettava, liberava prigionieri, cioè nel senso faceva delle cose, non era ritiriamoci nel nostro bunker, non verranno mai a cercarci e noi resistiamo finché non vengono ad arrivare e ci prendono tutti. Cioè è quella differenza lì. Abbiamo capito, insomma, dopo Stalingrado bisogna passare all'operazione Urano. Poi stasera quando siamo a casa da soli ti faccio vedere su Wikipedia cos'era l'operazione. No, no, Urano e basta. Tonnellate d'acciaio sui nazisti, ma questa è un'altra storia, tranquillo. E, no, volevo dire una domanda, ma cazzo, mi è passata davvero. Come dirti sta minchiata? Per il progetto Urano, operazione Urano comunque è successa veramente. Ti ho marzullato? No, mi hai marzullato, bravo. Adesso quindi adesso te lo meriti, fatti una domanda e datti una risposta, dai. No, no, non lo so. Io potrei tempo. Andare avanti a parlare, cioè il discorso è che sto... Purtroppo lo sappiamo che potresti andare avanti. Discorso, no, il discorso è che è difficile anche cercare di spiegare i livelli che ci sono tra la mia vita personale e quindi la mia esperienza anche... in qualche modo disfattista, ma io non la vedo così. Ma dai, sarei mica, mica preso male. Voglio ma farti un'altra citazione. Dimmi. Vuoi un'altra citazione? Dici a tutti e tutte. Uno dei motivi per cui il nero è uno dei colori prevalenti è che alla fine del percorso della Comune di Parigi, tale buonanima di Louis Michel. Alla fine del percorso della Comune di Parigi, che finì, vi ricordo, nel sangue, finì proprio malissimo, quando si ritrovarono, credo l'anno successivo, ma comunque per gli anni successivi, nel riflettere su quello che era stato la Comune di Parigi, e di conseguenza fare cortei, mobilitazioni, eccetera, in ricordo di io, comunque, lei fu la prima a presentarsi con una bandiera nera, che dice, e disse, e questo è un convegno di anarchici, di anarchiche, post comune, appunto, in cui l'idea comunque libertaria generica era la prevalente, perché comunque il comunismo non esisteva ancora. Era già uscito un libretto, sì, scritto da uno, finanziato da un altro. Inghilterra non esisteva ancora, 48, come il manifesto del Partito Comunista. Scusate, volevo dirlo. Sì, però Barbero l'altro giorno è rimasta la gallina. Barbero ha smesso di essere di moda da un po'. No, vedi, non capisci un cazzo. Ma metti a ripicare in diretta radio veramente su Barbero. No, cioè, vabbè, io fammi finire. Dai, sto fammi dormi nella vasca da bagno, te lo dico. Fammi finire. No, sei troppo carino. Quello con cui si presentò appunto Louis Michel era appunto questa bandiera nera gigante che diceva: io con questa bandiera nera, con questo simbolo, voglio portare innanzitutto il lutto, perché storicamente nel mondo occidentale il nero è il lutto delle persone morte durante la Comune di Parigi, in tutto quello che è successo alla Comune di Parigi. Dall'altro lato, io con questo lutto voglio portare anche il lutto che però mi rivendico delle illusioni della Comune di Parigi. Quindi le illusioni sia positiviste sia negativiste di quello che è, quindi questa idea che ci sia un mondo migliore o un mondo peggiore che è nello svolgimento, ma semplicemente di idea di scientifica, di analisi di quello che è il mondo reale, tra virgolette. Quindi il nero come simbolo non tanto di bene o male, ma di analisi, riflessione del partiamo dall'abolizione delle nostre illusioni nel bene e nel male, e di conseguenza di tutta la retorica che accompagna la presa bene e la presa male. Che è una cosa che mi sento addosso abbastanza forte. Cioè, non a caso sono da qui parte una riflessione. Non è una presa male, è un'analisi lucida che supera la retorica, anzi che demolisce la retorica. Perché in un altro manifesto... E che cazzo però! Che è sempre quello sul... Ma ne hai, scusa, 66? No. Ah, ok. 38. 161. 161 alla fine, un'altra che dice è... La retorica è la peggiore nemica dell'analisi. Sì, è vero. L'ho detto anch'io prima. Vabbè, sempre questo, sì. Sempre quello. Sì. Cioè, nel tentare di sfatare la mitologia del fatto che possiamo raccontarcela, cantarcela tra di noi quanto vogliamo, ma poi il mondo reale funziona in maniera diversa. Quindi, e anche lì, la liberazione nazionale, il concetto di nazionale, che ha fatto storcere al naso a non poche persone... Il significato di agire locale, pensare globale, cioè è di fare ragionamenti sulla realtà fisica, materiale, materialista. Se materialistica, vuoi. Soprattutto. Ma mi hai fatto tornare in mente la domanda che ti dovevo fare. Vai. Bam. No, perché giustamente. Ma lasciamo spazio un po' anche di altre domande. Ma se volete. È diventata pubblico, di nuovo. Il pubblico è timido. Timida. Dopo perché sennò perdo. Vai, vai, ma perché mi hai preso? Io che sono un coglione capace. Dai, passa questa domanda. Dato che tu parlavi di la capacità, il nero che deriva dal fatto di ragionare sui lutti, sulle cose che abbiamo perso, ma anche sulle cose che sarebbero potute essere, non sono state, per cui partire dalla riflessione, eccetera. La domanda che ti volevo fare prima, ma che posso attualizzare ad adesso, è un lungo tour per l'Italia, in cui sei stato in tante città, in cui hai portato le tue grafiche che parlavano di organizzazione, di modificare i teoremi dell'immaginario, di cambiare tanti modi di essere dati mai per scontati. Cosa hai trovato girando l'Italia, girando i centri sociali e collettivi? Prima dicevi, tante volte ho visto ragazzi e ragazze giovani che avevano voglia di conflitto e le quasi istituzioni di movimento diventano istituzioni quando si incancreniscono e non sono più capaci di modificarsi, come l'anagrafe, come i ministeri, come tutto il resto. Oltre a questo, cosa hai trovato? Cioè, hai trovato in realtà, chiedo scusa, rutto perché le olive più Campari è così. Quale però, Campari? Qua è tutto vuoto. Ma che stai dicendo? Ma veramente? Ma sei fai schifo. Scusate, no, il bianco ce l'ho io. Vabbè, e comunque, vedi, mi fai apposta a far parte delle domande. Tolta questa cosa qui, tu in giro per l'Italia hai trovato realtà che avevano voglia, capacità e la concretezza di dire, di discutere con te? Sì, hai ragione, effettivamente un cambio di immaginario ci starebbe. Hai trovato persone che avevano già cambiato l'immaginario prima ancora che tu ci parlassi? Hai trovato persone che hanno sgranato gli occhi dicendo minchia, ma sta roba è assurda, minchia, sta roba è una cosa geniale? Cioè, rispettivamente all'immaginario, l'organizzazione, proporre di andare oltre la resistenza, se dovrei farti un elenco puntato perché sennò poi mi dici che sono labirintico, però come sono state accolte le tue grafiche girando per l'Italia? Come hai trovato il movimento? Pronto, non pronto, lontano, vicino, sul pezzo? Allora, è una domanda complessa nel senso che due dati, diciamo, pseudo oggettivi alla questione. Innanzitutto ho percepito una maggiore affinità, diciamo diffusa, in quella che è le persone giovani più invece che delle persone vecchie, cioè vecchie nel senso anagraficamente. Quindi ho volto muto, mi è capitato più spesso di dover discutere barra litigare con persone di una certa età. Vabbè, che forse avevano interiorizzato dentro di sé immaginari sì, differenti. Sì, che mi dicevano, no, ma noi negli anni 60 l'aborto, e ti dico sì, però l'aborto 50 anni dopo non è che andiamo molto bene. E lì discussione, bla bla bla. Dove vogliamo una città? Dai, vogliamo una città. In realtà è successo qui. Però a Milano. Qui a Zam. A Zam. L'ultima volta. A minchia. E tu non te lo ricordi perché ero ubriaco. Io. No, comunque. Per fortuna se le posa cenere, per fortuna. Aspetta. Che brutta mossa che hai fatto. Comunque, a parte questo, in generale, da nord a sud le esigenze sono completamente diverse. Paradossalmente, Firenze e Taranto hanno dei bisogni cittadini, territoriali, agli antipodi. Veramente gli antipodi. Cioè, proprio, cioè l'hai capita proprio? Agli antipodi. Cioè, ma tipo? Svuotamento della città da un lato, dall'altro lato. A Taranto, quindi? A Taranto, cioè. La città si sta spopolando? Sì, la città vecchia perlomeno. A Firenze, invece, è iperpopolata, per fare un esempio, da turisti, eccetera. Però questo è un altro discorso. Quello che ho percepito è che appena si esce dai discorsi assembleari, quindi pregni di retorica, pregni del dobbiamo dare un segno politico, dobbiamo dare tutte quelle frasi fatte classiche delle assemblee decisionali, eccetera, e comincia a parlare personalmente a livello individuale con le persone, tendenzialmente chiunque la pensa in maniera abbastanza simile, quindi, ma anche con persone che non hanno mai fatto politica o hanno smesso di fare politica al liceo, alle superiori, o l'hanno fatta 30 anni prima, o hanno voglia di continuare a farla, cioè nel senso, c'è di base una coscienza abbastanza diffusa di cosa non va e cosa va anche all'interno, soprattutto all'interno delle organizzazioni che poi sono quelle che si dicono rivoluzionarie. Conosci le realtà che si dicono rivoluzionarie? Madonna santa, sei ipercritico, madonna. Non è critico. Sei un vecchietto che guarda i lavori, veramente, cioè, sì, terribile. Sì. Sono il vecchietto che coordina i lavori. Sei un vecchietto che fa i disegni sui lavori. Esatto, no, ma questo io lo farei diversamente. Comunque, c'è una coscienza abbastanza diffusa del fatto che all'interno del movimento c'è un complesso sistema di... sì. Conservatorismo e immobilismo generale che non si sa come far muovere. Qualcuno dà la colpa alle condizioni, qualcuno dà colpa al linguaggio, qualcuno dà colpa alle persone che fanno parte del collettivo. Ma tornando a una delle grafiche proposte all'interno della mostra, che adesso non mi ricordo dov'è, credo quella alla vostra destra con la stella rossa, che dice, per chi ci ascolta la radio, se chiudete gli occhi la vedete, che dice lì, nelle vostre palpebre: a prescindere dal contesto della situazione, le condizioni di partenza per la liberazione sono sempre necessariamente svantaggiose, altrimenti, e fino a qui effettivamente, altrimenti non ci sarebbe bisogno di quella liberazione. Però quante volte avete sentito dire ma non ci sono le condizioni per fare conflitto, non ci sono le condizioni per fare questo, non ci sono le condizioni per fare quell'altro. Però di più, quante volte l'ho detto? Capito? Quindi di base, ed è una, tra l'altro è la grafica forse a cui mi sento più legato a livello sentimentale per quello che è stato poi il mio modo di pormi, quindi del fare le cose nella difficoltà. Non so se ho risposto alla tua domanda, però è una coscienza abbastanza diffusa, è una consapevolezza più di una coscienza, cioè il sapere che tutti abbiamo voglia di fare le cose, ma poi c'è sempre una scusa per non farle. Però se ti poni nella posizione di dire ma le condizioni per poterlo fare non ci saranno mai, altrimenti non avremo bisogno di farle, ti sblocchi. E quello, può darsi. Quel principio di movimento del dovere, potere, crea qualcosa. La cosa brutta del mio lavoro, tra virgolette, è che dopo che io lascio i posti in cui sono stato, non vedo quello che succede. Quindi non posso sapere in ogni centro sociale, ogni circolo, ogni bar, ogni persona con cui ho interagito, vedere cosa succede. Se si radicalizza invece si prende male o boh. Dovrei fare per forza un altro tour. E il tour va avanti da un anno. Farai un altro anno. Sì, avanti all'infinito. Allora, avendo capito cosa diceva Fra e avendoci riflettuto, e ci torneremo stasera dopo la 77esima birra, però prima andiamo a mangiare, ti prego, perché sennò diventa brutta la situazione. Joy aveva una domanda. Sì, è un caso raro ed eccezionale questo. No, io mi chiedevo, per te il nemico, cioè il discorso che hai fatto anche all'inizio sul nemico, è l'idea, sono le idee, o è l'azione che deriva dall'idea e quindi dall'organizzazione dell'azione? Perché personalmente, cioè tipo vabbè, vedendo le grafiche mi sembra tutto molto astratto, cioè che è un po' a libera interpretazione, se non sbaglio. Comunque vabbè, questa è un po' la mia impressione. Però prima hai detto qualcosa al riguardo e ti sei lasciato sfuggire un nemico e lo Stato, e quindi adesso mi chiedevo esattamente tu, cioè come identifichi il nemico? Poi vabbè, magari risponderò anch'io a questa domanda. Ci sta. Io mi sono perso la domanda. Ha fatto la domanda alla Marzullo? Sì, no. Ah, no. Solo lei, io tutta la sera. Vuoi mangiare qualcosa? No, mangia qualcosa. Scusate. Allora ti dico, appunto, riprendendo un po' la citazione di Marcos del 2004, io credo che i nemici del nostro vivere ipotetico abbiano nomi e cognomi, quindi siano proprio obiettivi chiari. A loro volta questi nomi e cognomi rappresentano un sistema di interessi che è contro di noi, che possono essere quelli del, e ripeto, questo non è mai stata la volontà del progetto, perché il progetto si occupa di altro, quindi non di occuparsi di singole istanze sul lavoro, l'istruzione, la salute, le relazioni interpersonali, cioè non è questo l'obiettivo del lavoro, ma cioè, di questo progetto, ma ha una visione, diciamo, più appunto, poetica alla Sun Tzu, ci provo perlomeno, ma che possa essere, diciamo, di indicazione sul fare, sul progettare, su, proprio a livello procedurale. Poi io posso risponderti personalmente, io so chi sta da una parte della barricata e chi no, e non è un discorso del rivoluzionario o il controrivoluzionario, perché se devo fare una conta di chi è rivoluzionario e chi non lo è, non è nessuno rivoluzionario nel senso stretto del termine. So che determinati atteggiamenti, determinate posture, determinati meccanismi, che appunto quel tipo, quello, verso la moderazione, verso un appiattimento della conflittualità, verso un'idea di partecipazione politica fatta di Raffaella Carrà come massima di esperienza di conflitto. Mica questa cosa proprio t'ha segnato. Non è che mi ha segnato, però mi dà il polso della situazione, del fatto che c'è una differenza tra quello che è il racconto e la differenza tra quello che poi è il racconto e l'effettiva realtà delle cose. Le cose, cioè, è brutto da dire, però qualche tempo fa avevo letto mi è capitato di leggere un dossier, cioè comunque un'analisi di quelli che erano i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici durante gli anni di piombo, in cui comunque qualcosina succedeva. Paradossalmente, in un periodo di terrore verso il padrone come quello degli anni di piombo, e non sto parlando di che dobbiamo fare la lotta armata, non sto dicendo questo. Perché no? Nessuno ti sente. Meno male. Paradossalmente, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici durante gli anni di piombo erano più alti rispetto a quelli che sono oggi, in cui paradossalmente, a livello contrattuale, a livello costitutivo della nostra Repubblica, il diritto al lavoro sono più alti, perché è frutto di lotte, eccetera. Quindi il discorso è che i nemici ci sono anche abbastanza evidenti. Il motivo per cui non ho mai scelto di scendere nelle specifiche tematiche è perché io voglio trattare di tutte le tematiche. Dal transfemminismo al diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, eccetera. Quindi quello che io provo a fare è dare indicazioni di tipo procedurale, appunto senza essere dogmatico, ma per tutte le istanze, dalla scuola all'università, all'ospedale, al mondo della disabilità, a quello che è il diritto di voto, alla voglia di sposarsi, cioè. Io provo a dare delle indicazioni attraverso quello che faccio di tipo organizzativo e strategico, a prescindere da quello che è poi l'obiettivo specifico di ogni organizzazione. Sì. Poi io ho i miei personali, magari ho le mie idee personali, ma questo è un discorso che esula il progetto. No, ma secondo me è molto bello che attraverso una produzione di questo tipo si cerchi di fare questo tipo di lavoro, ma credo che forse sia anche il caso, ma anche a prescindere da questo tipo di lavoro, di produzione artistica e politica, è necessario riconoscere quali sono i nemici. E sapendo che un'idea non muore, ma muore la persona che porta avanti quell'idea, l'idea rimane. Le idee che possono essere il capitalismo, che possono essere il patriarcato, eccetera, eccetera, quelle non muoiono, perché fanno parte di noi. Cioè, siamo l'essere umano, un essere, un animale sociale, fatto di relazioni, riprendendo anche il discorso quando è iniziato, quindi la politica è relazione e la relazione è politica, per cui cioè, patriarcato, capitalismo, neoliberismo sono tutte cose che non è che nascono in astratto, siamo noi come società che nei millenni, nei secoli le abbiamo costruite e le abbiamo prodotte poi identificate come delle idee che continuano ad essere e stare dentro di noi. parlando di transfemminismo, cioè uno degli insegnamenti più profondi è proprio questo, il fatto che nessuno è esente. Poi è chiaro che c'è un ordine, una gerarchia di genere, quindi c'è un genere che prevarica su tutti gli altri. È chiaro, no? Dopodiché sappiamo anche che in realtà il sessismo permea tutte le nostre relazioni, indipendentemente dal genere, in un modo o nell'altro, c'è chi più è svantaggiato e chi più no, sicuramente. Però questa, riconoscere il nemico secondo me aiuta anche, magari focalizzandoni più, perché mi viene più semplice fare questo ragionamento quando si parla di transfemminismo, è che proprio nessuno è esente da, quindi anche l'egoismo e l'individualismo sono tutti prodotti culturali, sono delle idee che sono diventate azioni, per cui è chiaro che esistono anche, esiste secondo me il nemico che è l'idea e poi ci sono le persone che scelgono consapevolmente o inconsapevolmente di seguire i fini di quell'idea, e quindi lì si tramuta in azione, si tramuta in persone che sfruttano, persone che sottomettono, persone che agiscono in determinati modi e generano e continuano a dare, buttare la carne sul fuoco e a perpetrare tutto questo sistema. Per cui era questa un po' la mia riflessione. Secondo me, quando si parla anche di pratiche, di strategie, è anche essenziale e necessario, secondo me, anche aver bene chiaro che cos'è il nemico, chi è, che può avere un nome e un cognome, ma questo nome e cognome un giorno non ci sarà più, che sia per qualsiasi motivo X, la persona non ci sarà più, però l'idea che porta avanti nelle sue azioni, nelle sue pratiche, nelle sue relazioni, e anche a livello macroscopico con le politiche e tutti i vari interventi economici, eccetera, quelle continueranno ad esserci nonostante questo nome e cognome non ci sia più. Sì, diciamo che a questo intervento io ho risposto tralasciando il discorso del nome e cognome, che vabbè, ci sono, ma appunto come dicevi tu, magari un giorno non ci saranno più, il discorso che non è chi sono e basta, ma è dove sono. E appunto ti riprendo un po' quello che avevo appunto, che poi è quella la grafica che è subito dietro di te, che è quella in cui dici il nostro nemico sistemico, quindi è interiore e internalizzato, quindi dov'è il nemico? Cioè è sia dentro di te che attorno a te, e di conseguenza i meccanismi di quella liberazione sono dentro di te e attorno a te, ma che appunto va dai percorsi di tipo transfemminista, ma anche non solo, vanno anche oltre rispetto alla speculazione, rispetto al consumo. Sì, ho usato quello come esempio proprio perché sì, mi però rende più abbastanza, nel senso che è un po' li prende un po' tutti, no? Spesso e volentieri mi è stato chiesto di dire: ah, ma perché non ti occupi della tematica del lavoro? Perché non ti occupi di questo? Perché non ti occupi di quell'altro? L'idea è stata di mantenere lo stile, diciamo un po' tra virgolette, quello di Sun Tzu, quindi molto poetico, molto anche astratto, per dare la possibilità a chi voleva poi occuparsi di tematiche specifiche poter declinare quei meccanismi di strategia, organizzazione a seconda dei propri obiettivi. Il proprio obiettivo è la distruzione del patriarcato? È un bel obiettivo a lungo termine, che però nel mezzo ha tanti obiettivi a medio o corto termine. Ad esempio, come i diritti sul lavoro, ne hanno altri, come l'idea del lavoro, cioè dal diritto al lavoro al cos'è il lavoro, cioè nel senso ci sono dei passaggi graduali in mezzo, come anche fascismo, antifascismo, cioè nel senso c'è una grossa differenza tra quello che è il mondo delle idee e il mondo delle ideologie, quindi dei sistemi, che non per forza sono consci, perché la maggior parte delle persone fanno parte dei sistemi inconsciamente. Se parliamo poi di patriarcato, è la cosa più inconscia del pianeta. Io stesso ho fatto parte a meccanismi di violenza, ho perpetrato violenze, e poi attraverso la conoscenza, e poi attraverso l'analisi, l'indagine, ho scoperto che magari invece che comportarmi A, posso comportarmi B. Beh sì, quella poi è un esercizio, come l'esercizio alla partecipazione al Sì, però non è un esercizio che finisce, è un esercizio che va esercitato appunto, va... Non ha fine. Va portato avanti, quindi i nemici non è che è nemico X punto, è un nemico sistemico, quindi è una relazione di mondi che si incastrano... nelle loro varie strutture, nel loro svolgersi criminale, tra virgolette. A questo punto io vorrei concludere con una citazione che sembra una cazzata ma non lo è, perché Fantozzi. Molte volte, no, assolutamente, ma sempre filosofia cinese, non so se è Sun Tzu o qualcun altro, che diceva come sempre: quando tu hai un nemico sediti fianco al fiume e aspetta a passare il suo cadavere. Ecco, forse una cosa che è evidente nelle tue grafiche è che non era di Sun Tzu, però comunque è filosofia cinese, sono, magari tracceremo l'autore. Stai dicendo che sono tutti uguali? No, sto dicendo che... ti mando a guardare Squid Game stanotte, per punizione guardi Squid Game tutta la sera. La questione è questa, che non bisogna sedersi di fianco al fiume, perché la questione è che... Coreani. Crocifiggetemi, ragazzi, cosa vi devo dire? La questione è questa, che non bisogna, magari l'idea di fondo delle tue grafiche è che non bisogna più pensare che sedendosi a fianco al fiume o aspettando o rimanendo nei propri fortini chiusi e chiuse ad aspettare le cosine propizie si cambieranno le cose. Ora, la questione è questa, secondo me sono tipo le 9 passate, per cui secondo me le persone sono anche abbastanza sature delle nostre chiacchiere, sicuramente delle mie. A questo punto quindi la proposta è sempre la stessa, se l'EDG mette della musica dagli altiparlanti di Zam, la gente fa il cazzo che vuole, e qui si apre il microfono aperto salotto con Francesco e Guglielmo, dove diciamo minchiate a nastro all'infinito. Greta, prima invitata qui subito, muoviti, vieni qua immediatamente. Ho una cosa mezza seria da dire. Che cazzo? Mezza seria. Maurizio, Gabri, possiamo andare via, grazie. Andate via, mezza tranquilli, seria, grazie. Mezza minuto, seria, non serve niente. Un minuto. Prego. Scusa, dal bar, però potete stare attenti, perché siamo qua anche per voi. No, scusa. Tutte le grafiche sono in vendita, ci sono diversi materiali al banchino. Quello che potete trovare lì e eventualmente magari non lo trovate, è disponibile online, io ve lo stampo, ve lo spedisco e ve lo manda con la posta, e ve lo manda in posta, e fa le code in posta per mandare la roba. Esatto. Anche Zero Calcare è iniziato così, tranquillo, tra un po' anche tu la serie su Netflix. La vendita dei materiali è quello che mi permette di vivere, di viaggiare e di non chiedere niente alle realtà che mi ospitano o che ci ospitano a seconda delle occasioni, e di continuare a produrre, continuare a fare ricerche, continuare a rompere le scatole a destra. Fare murale 600... Non lo fai, colpa mia, sei colpa mia, cioè, è chiaro. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ma sì, dai, Laura, hai capito? L'hai visto? Ma poi condivide pure! Nel caso... Hai creato un mostro. Nel caso, adesso io mi metto lì un po' al banchino a fare... No, tu resti qua con il microfono, non te ne vai più! E ci vediamo, se no, domani. Grazie. La stessa cosa, senza, con meno chiacchiere. E ma sempre col microfono. Ah sì? Spento, senza cavo. Spento. Va bene. Gioia, mettiti la musica, per Dio, fai qualcosa! Niente, risponde facendo una dub abbastanza così improbabile. Va bene. Grazie mille. Grazie. Ciao.